possibile. Bobby Sands morì il 5 maggio 1981 nel carcere di Long Cache fuori Belfast e era già diventato prima di morire l'icona dell'indipendentismo irlandese. Morì dopo 66 giorni di sciopero della fame che aveva condotto insieme ai suoi compagni. 9 altri suoi compagni morirono dopo di lui in rapida successione. Lui morì appunto il 5 maggio, gli altri cominciarono a morire poco dopo, poche settimane dopo, fino a agosto. Fu una fase a dir poco drammatica, tutti noi, io compreso, eravamo troppo giovani per averla vissuta in prima persona, ma chi è più vecchio di noi se la ricorda bene. E, è il momento centrale della lotta indipendentista irlandese, perché da quel momento in poi quel conflitto prese un'altra piega, prese la piega del processo di pace che lentamente, molto, molto gradualmente, poi sfociato nel 1998 con l'accordo di pace di Belfast. Ma ora non vi tedierò con questioni appunto politiche di questo tipo, vi parlerò semplicemente di lui, perché lui è un simbolo non soltanto per gli irlandesi, ma soprattutto per gli irlandesi. Io vado in Irlanda da circa 20 anni e tutte le volte che vado a Belfast la prima cosa che faccio è andare a Falls Road, che è l'ex ghetto cattolico nazionalista e indipendentista di Belfast, che adesso è molto cambiato rispetto a allora. Allora era veramente un ghetto negli anni 80, fino alla metà degli anni 90 c'erano le grate a protezione dei pub per evitare che venissero lanciate le Molotov, c'erano barricate, c'erano camionette della polizia, dell'esercito, c'erano continue perquisizioni, continue sparatorie, insomma era una situazione di guerra a bassa intensità molto pesante e la gente moriva, i bambini morivano, le donne morivano, i civili morivano e che ne possano dire gli inglesi, sono gli occupanti da sempre, da secoli, non soltanto dal 1969 quando nacque, quando divampò questo conflitto tremendo nel cuore dell'Europa, sono stati gli invasori e hanno creato una situazione di conflittualità che tuttora persiste in questa terra dilaniata, tant'è che anche adesso, oltre 20 anni dopo il processo di pace, dopo il trattato di pace, Belfast è comunque tuttora oggi costellata dei cosiddetti muri della pace, cioè queste barriere gigantesche di cemento e lamiera che separano un quartiere cattolico nazionalista come Falls Road, come tanti altri, dai quartieri unionisti protestanti e quindi quelli che vorrebbero rimanere fedeli alla corona britannica. Bobby Sands, vi dicevo, morì dopo 66 giorni di sciopero della fame che iniziò come protesta estrema contro appunto la criminalizzazione che il governo britannico all'epoca, guidato da Margaret Thatcher, aveva deciso nei confronti dei prigionieri politici repubblicani, indipendentisti, proprio perché loro volevano che fosse riconosciuto questo status di prigionieri politici che appunto il governo voleva negare loro. La protesta fu graduale, prima cominciarono a fare la cosiddetta protesta sporca, quindi non volevano più lavarsi di fatto, non perché semplicemente quando venivano portati fuori dalle celle venivano presi a bastonate, a manganellate, venivano massacrati dai secondini e quindi rimanevano nelle loro celle. Le loro celle, avrete visto in alcuni film, in alcune immagini, erano praticamente in delle condizioni indecenti, perché queste ovviamente non potevano non solo lavarsi loro, ma non potevano nemmeno svuotare, diciamo, quelli che sono i bisogni corporali, quindi facevano tutto in cella. Queste celle erano marroni perché chiaramente i bisogni corporali venivano poi alla fine, dovevano essere da qualche parte messi. Queste celle erano sigillate, venivano chiuse le finestre, quindi loro vivevano lì tra vermi, tra appunto i loro escrementi stessi. Quando poi questa situazione appunto arrivò all'estremo, le loro richieste non venivano assolutamente accettate dal governo britannico, decisero di adottare appunto questa forma estrema e antica, perché risale all'antica tradizione gaelica irlandese, dello sciopero della fame, che era uno sciopero della fame diverso da quello che fanno per esempio i compagni e le compagne turchi in Turchia o situazioni simili, ovvero sia veniva semplicemente assunta dell'acqua, quindi non venivano assunte vitamine, quindi questo questi compagni, che erano per lo più uomini, poi fecero anche delle donne, fecero delle proteste di questo tipo, quindi rifiutando il cibo, ma nessuna di loro morì. Quindi assumendo dell'acqua è chiaro che poco più di 2 mesi si muore sostanzialmente. Lui morì dopo 66 giorni, altri sono morti dopo qualche giorno di più, qualcuno incredibilmente, Lawrence McKeown, fece 73 giorni di sciopero della fame, è ancora vivo, perché riuscì a di fatto fu tolto dallo sciopero al 73° giorno, era quasi diventato cieco, insomma aveva delle complicazioni terrificanti. Bobby Sands appunto morì all'una di notte del 5 maggio 1981, il suo corpo scarnificato, disidratato e coperto di piaghe, divenne di fatto cenere della rivoluzione proprio in quel giorno terribile. Io mi sono immaginato una sorta di dialogo con lui, forse anche un po' velleitario, come se parlassi con lui. È stato un modo anche per ricostruire la sua vicenda, perché Bobby Sands non era diverso da tutti gli altri, non era diverso da noi prima di diventare in carcere, prima di entrare in carcere era un semplice attivista, era un semplice volontario dell'IRA, dell'esercito repubblicano irlandese, non aveva condotto azioni eclatanti, non era un eroe della rivoluzione irlandese prima di entrare in carcere, ci sono molte altre figure che sono sul piano strettamente militare più significative di lui, solo che lui proprio in carcere è riuscito, per una serie di motivi, non soltanto per l'abnegazione, per la forza di volontà sovrumana a mio avviso, perché morire di sciopero della fame in questo modo è qualcosa che va oltre le capacità umane e che nessuno di noi sa se può averle. Lui lo scoprì in corso di questi 66 giorni, ma riuscì anche a trasformare in qualcosa di poetico questa lotta terribile, questa terribile lotta carceraria. Ci ha lasciato degli scritti che sono qualcosa di bellissimo, sono la testimonianza carceraria più bella, più significativa forse del XX secolo, almeno in lingua inglese, e riuscì addirittura a farsi eleggere in Parlamento mentre era in carcere. Quella fu, come dire, una svolta che portò di fatto le compagne repubblicane irlandesi a capire che a un certo punto si poteva passare dalla lotta armata alla politica, con delle evoluzioni che sono vicine ai giorni nostri, che qualcuno può ritenere discutibili. Purtroppo la politica, almeno da un punto di vista istituzionale, poi diventa compromesso e diventa spesso troppo compromesso. Però appunto lui, nella fase finale, anche per cercare di salvargli la vita, ci fu un'opportunità appunto di essere candidato alle elezioni al Parlamento di Westminster, dentro il quale non sarebbe mai entrato, nemmeno se fosse stato in libertà, perché Sinn Féin, il suo partito, o comunque il partito che lo candidò, era ed è tuttora un partito astensionista, quindi si presenta alle elezioni ma non entra in Parlamento per protesta, perché per entrare al Parlamento di Westminster bisogna fare un giuramento di fedeltà alla corona britannica e per loro è chiaramente improponibile. Prese 32.000 voti, fu una cosa epica, prese più voti della Thatcher, la Thatcher era stata eletta qualche anno prima con meno voti, e chiaramente nemmeno questo servì a salvargli la vita, perché comunque sia lui gli ultimi giorni li trascorse in carcere, ma fu una svolta straordinaria. Io appunto cercherò di raccontarvi la sua storia attraverso questo piccolo monologo e con l'aiuto anche di queste immagini. No, noi non possiamo neanche immaginarcelo, il freddo che si pativa d'inverno in quella bara di cemento. La cella era inzuppata dalla neve entrata dalla finestra e le coperte strette attorno al tuo corpo nudo erano una misera difesa contro il gelo pungente che ti penetrava nelle ossa. La neve, a volte la osservavi cadere silenziosamente formando un sottile strato di ghiaccio e ti ricordavi quando i fiocchi argentati scendevano innocui sulla collina di Carmone. Da piccolo passavi pomeriggi interi a giocare sui sentieri che si arrampicavano fuori dalle finestre di casa tua. correvi a perdifiato sotto un sole che si scioglieva nella pioggia, rincorrendo gli uccelli che volavano a testa bassa in quegli immensi prati verdi. Ma da quando il gracchiare dei corvi aveva sostituito il canto dell'allodola, potevi solo chiudere gli occhi ed esplorare la tua mente alla ricerca di quella sensazione di pace che avevi provato da bambino. Gli orrori della vita quotidiana in carcere svanivano e sognavi di essere di nuovo libero. La tua mente evocava immagini di volti sorridenti, giorni di sole, sere d'estate all'aria fresca, finché un rumore violento e improvviso non ti riportava bruscamente nel mondo reale. Porte metalliche che sbattevano, passi pesanti che si avvicinavano, le urla delle guardie, il grido di dolore di un tuo compagno. A volte ti svegliavi nel cuore della notte e ti illudevi che quell'orrore fosse soltanto un incubo, che Geraldine fosse accanto a te, che la vostra vita insieme potesse avere un domani. E poi però quella speranza svaniva subito, ti ricordavi che il tuo corpo stava morendo prima del tempo, ti chiedevi se eri ancora un essere umano, se lo eri mai stato, e dubitavi di aver avuto un'esistenza precedente alla non vita che ti stavano costringendo a vivere. Eri un prigioniero di guerra, Bobby, e da anni te ne stavi in cella nudo pur di non indossare quell'uniforme carceraria che avrebbe svilito la tua lotta, rendendoti un criminale comune. Non potevi sapere di essere un predestinato e non avresti neanche voluto esserlo. Amavi la vita, ma più di ogni altra cosa amavi la libertà. Dietro a quelle sbarre hai scoperto di possedere una forza di volontà capace di cambiare il mondo. Hai lottato oltre ogni limite, sfidando un mostro che non ti ha lasciato scelta, costringendoti a quella fine atroce che ti avrebbe reso immortale. Una gigantesca marea umana partì silenziosamente alle 2 del pomeriggio dalla chiesa di Twin Brook per accompagnarti nel tuo ultimo viaggio terreno. All'altezza di Andersonstown il corteo si fermò per issare la bara sui cavalletti. Un gruppo di volontari sparò 3 salve di fucile in aria davanti al feretro, prima di sparire tra la folla. Solo il lamento delle cornamuse spezzò quel silenzio surreale che si sciolse nei canti di preghiera davanti ai cancelli del cimitero di Milltown. Il tricolore ripiegato, i guanti e il berretto della tua divisa consegnati nelle mani di tua madre. La dignità e la rabbia della tua gente, l'angoscia e il dolore del mondo intero. Cosa avresti pensato vedendo le morbide lacrime versate quel giorno dal tuo piccolo Gerard? Tu che nel tuo diario di prigionia avevi scritto quella frase struggente: la nostra rivincita sarà il sorriso dei nostri bambini. Aveva solo 8 anni Gerard, se ne stava lì, minuscolo e smarrito, in mezzo a quegli uomini in divisa, in tenuta militare col volto coperto. Quando avevi la sua età, la tua famiglia era già stata costretta a lasciare la casa dove eri nato, a Newtown Abbey, perché quelle come voi là non ci dovevano stare. Abbots Cross, un fazzoletto di case in mezzo al verde delle colline, privo di muri e reticolati, era la cosa più simile alla libertà che tu avessi mai conosciuto. Per un po' il cognome protestante di tuo padre era bastato a garantirvi l'incolumità di fronte a quell'intolleranza incomprensibile che si sarebbe presto tramutata in un odio cieco, irrazionale, violento. I tuoi si erano sempre tenuti alla larga dalla politica, pensavano soltanto a lavorare, a crescere i propri figli. Poi i vicini scoprirono che la tua era una famiglia mista e cominciarono gli sguardi sprezzanti, i piccoli dispetti quotidiani, le provocazioni, finché la vostra vita non divenne un incubo. Quante volte avevi visto tua madre piangere senza capire perché, e prima che tu avessi il tempo di comprenderlo, vi avevano già costretto ad andarvene. Era il 1961, avevi 7 anni, ed eri ancora troppo piccolo per soffrire a causa di quel distacco, per percepirne tutta l'amarezza e la frustrazione. E poi la vostra nuova casa a Ratcool, un'area popolare a maggioranza cattolica, non lontano da Abbots Cross, non aveva niente davvero che facesse rimpiangere l'altra. Almeno adesso tua madre aveva smesso di piangere, per la strada nessuno più vi chiedeva se eravate cattolici o protestanti. Tu eri il più basso di tutti i tuoi coetanei, eppure non ti tiravi mai indietro, specie se c'era di difendere Marcella e Bernadette, le tue sorelle più piccole. Che grinta, che voglia di vivere avevi, quasi come se tu avessi percepito che la tua vita sarebbe stata troppo breve per consentirti di fare tutto. amavi così tanto la natura, gli uccelli, da convincerti che da grande avresti fatto l'ornitologo, magari il calciatore, seguendo le orme del grande George Best, che abitava poco lontano da casa tua. I tempi di Rat Cooley erano anche quelli della Star of the Sea. All'epoca non era solo la miglior squadra giovanile di calcio di tutta l'Irlanda del Nord, ma era anche un simbolo di tolleranza, un antidoto al settarismo dilagante, un'isola felice all'interno di una città lacerata dalla violenza. C'era un allenatore di nome Liam Collum che non avrebbe accettato che la politica e la religione inquinassero la sua squadra e chi vi ruotava attorno. Chiunque poteva giocare a condizione che ci sapesse fare con il pallone ai piedi. Si stenta quasi a riconoscerti in quella foto dove te ne stai seduto in mezzo ai tuoi compagni, a braccia conserte, con i capelli corti e un sorriso appena accennato. Accanto a te, a destra, è seduto il tuo amico Tommy O'Neill con in mano l'ennesima coppa che avevate vinto. Alla tua sinistra c'è Michael Acheson, che qualche anno dopo sarebbe stato con i paramilitari protestanti dell'Ulster Volunteer Force, finendo in carcere con una lunga condanna per aver messo una bomba in un pub. Dietro, in piedi, si riconoscono altri tuoi compagni che finirono travolti dalla violenza di quegli anni. C'è Terry Nicol, un discreto difensore, prima che entrasse anche lui nei ranghi dei paramilitari protestanti e si facesse 5 anni di carcere per rapina a mano armata. E poi Raymond McCord, il miglior centrocampista della squadra. Anni fa il suo figlio maggiore è stato ammazzato in un regolamento di conti tra protestanti per una storia di droga. Da allora Raymond non si dà più pace e cerca in tutti i modi di avere giustizia. Anche il povero Paddy Davison ha dovuto piangere suo fratello, ucciso per strada a colpi di pistola. E Sammy Blair, protestante pure lui, te lo ricordi, all'epoca usciva con tua sorella Marcella, ma era chiaro che la loro storia non poteva avere alcun futuro. Qualche anno dopo la vostra ultima partita anche lui si è beccato 5 pallottole dall'ira. Una volta hai afferrato per il collo il giocatore di un'altra squadra perché aveva offeso un tuo compagno protestante. Non rifarlo mai più, gli hai gridato, ma mentre giocavate a calcio e sognavate di essere chiamati dal Manchester United per un provino, il mondo vi stava lentamente crollando addosso. L'onda di piena del conflitto avrebbe spazzato via per sempre il sogno della Star of the Sea, trascinando nel baratro le vostre vite. Sapessi com'è cambiata Rat Cooley da allora. Ai tuoi tempi era una zona mista con famiglie cattoliche e protestanti che vivevano le une accanto alle altre. Poi i cattolici furono cacciati, le loro case requisite o bruciate per far posto ai protestanti. Da anni è un ghetto ormai con le bandiere dei gruppi armati lealisti che sventolano dai terrazzi grondando l'odio tramandato di generazione in generazione, sopravvissuto anche al processo di pace. Quello stesso odio che anche la tua famiglia fu costretta a subire. In quegli anni a Belfast c'era chi soffiava sul fuoco come Ian Paisley, il pastore presbiteriano che tuonava dai pulpiti e dalle strade aizzando gli attacchi contro i cattolici. Padri e madri di famiglia venivano aggrediti e uccisi solo perché si trovavano nel posto sbagliato, al momento sbagliato. I tuoi genitori cercavano in tutti i modi di nascondere la paura e la preoccupazione mentre la città si tramutava in un palcoscenico di guerra permanente. Meno di 10 chilometri dividevano Rat Cooley da Belfast. All'inizio furono sufficienti a tenervi alla larga dal caos, ma intorno al 1968 anche la tua vita cominciò a cambiare. Quasi all'improvviso molti dei tuoi amici protestanti smisero di salutarti, iniziarono a disertare i vostri ritrovi abituali. Avevi 14 anni quando quelle immagini che vedevi scorrere alla televisione si fissarono nella tua mente come una ferita. Le manifestazioni per i diritti civili attaccate con violenza dalla polizia, gli studenti e i militanti aggrediti da bande di teppisti protestanti, più marciavano e più li picchiavano, a volte fino a ucciderli. Quella lotta alla quale tu iniziavi a sentirti così vicino si ispirava ai principi, ai metodi di Martin Luther King, anche se il suo recente assassinio rappresentava un monito tutt'altro che bene augurante. Sentivi avvampare la rabbia, provavi un insopprimibile senso di impotenza nel vedere che la polizia non difendeva quella gente, addirittura contribuiva alla repressione. Poi li ha incrociati mentre tornavi a casa e poteva finire molto male. Ti hanno avvicinato chiedendoti da accendere e poi ti hanno colpito con un coltello. per fortuna tu correvi molto più veloce di loro. Pensa che ancora oggi appare tanto sui muri quella scritta maledetta, Kai, kill all Irish, quasi come se il tempo si fosse fermato e quell'incitamento a uccidere tutti i cattolici irlandesi intendesse perpetuare quella follia all'infinito, anche adesso che la guerra non c'è più, dopo decenni di sangue, dolore, morte. Nella tua vita di uomo libero niente sarebbe stato più terribile, umiliante di quei 2 anni trascorsi a lavorare come apprendista nella fabbrica di autobus vicino a casa tua. All'epoca solo i protestanti avevano diritto a un lavoro e la tua colpa era quella di essere un cattolico che usava non rassegnarsi alla disoccupazione. Prima gli sguardi sprezzanti, poi l'eloquenza delle minacce. Una mattina sei arrivato in fabbrica e hai visto una pistola sul tavolo. I tuoi colleghi la stavano pulendo. La vedi questa? Se non te ne vai è per te, ti dissero, prima di puntartela contro. Le minacce di morte te le hanno persino messe per iscritto, facendotele trovare dentro l'armadietto dei vestiti. Infine ti hanno licenziato da un giorno all'altro, senza preavviso. È difficile far comprendere a chi non c'era cosa stesse accadendo a Belfast e dintorni in quegli anni. Le bombe che esplodevano tutti i giorni, i civili uccisi a sangue freddo, il terrore e il coprifuoco, le porte delle case abbattute a calci dai soldati durante la notte per arrestare padri, mariti, figli, fratelli, parenti, amici. C'era quella donna che girava per il quartiere mostrando dall'esterno le case alle giovani coppie venute da fuori. Ne sceglievano una, poi qualche invasato convinceva i proprietari ad andarsene. E se le minacce non sortivano alcun effetto, lanciavano sassi e bottiglie incendiarie dentro le case. Un giorno avvicinarono un bambino e gli regalarono un proiettile, dicendogli che ne avevano un altro anche per suo padre. Non c'era alcuna autorità o forza di polizia che vi potesse o volesse difendere da quelle violenze, da quei soprusi. In una calda notte d'agosto il forno dove lavorava tuo padre si trasformò in una trincea. I volontari dell'IRA si asserragliarono dentro tenendo testa per ore a centinaia di soldati inglesi guidati dal grande Joe McCann. Una foto memorabile lo ritrae davanti a una barricata in fiamme, inginocchiato col suo fucile M1 in mano e la Starry Plough, la bandiera socialista, che gli sventola sopra la testa. Nel coraggio di McCann, di quelli come lui, ha iniziato a intravedere una scintilla di speranza. Ti sei convinto che la rabbia era un sentimento sterile, che bisognava fare qualcosa prima che fosse troppo tardi, anche se la tua famiglia avrebbe visto con timore, forse addirittura con ostilità, un tuo coinvolgimento in quella lotta. Tu lavoravi in quel pub vicino a Glen Gormley, è lì che hai incontrato per la prima volta la tua Geraldine. Un giorno ti indicarono un tale che stava reclutando giovani per un'unità ausiliaria dell'IRA. Erano unità che non sparavano, né mettevano bombe, però svolgevano un ruolo logistico fondamentale. Trasportavano armi e messaggi, raccoglievano informazioni, facevano da palo. Pensaci bene prima di diventare un volontario, perché finirai in carcere o ammazzato, ti disse quell'uomo. Ma ormai niente avrebbe potuto farti cambiare idea, soprattutto dopo quella domenica maledetta a Derry che cambiò tutto. I paracadutisti inglesi iniziarono a sparare sul corteo per i diritti civili, uccidendo la gente a sangue freddo, ragazzi, padri di famiglia, lavoratori, tutti disarmati e ignari di andare incontro a una morte così assurda, a una violenza così cieca, scatenata da un esercito che fino a poco tempo prima si erano illusi fosse lì per proteggerli. Alcuni giorni dopo la polizia aprì il fuoco a una macchina, su una macchina sospetta che stazionava davanti a casa tua. Joe Cunningham, comandante del 3° battaglione dell'IRA di Belfast, rimase gravemente ferito. Avrebbero potuto arrestarlo facilmente, invece lo finirono con 2 colpi alla testa, sparati quasi a bruciapelo. Aveva poco più di 20 anni, lavorava al porto e la sua morte, in particolare il modo feroce in cui l'avevano ammazzato, ti colpì profondamente. Una notte i protestanti attaccarono la cappella cattolica del tuo quartiere, buttarono giù la porta e radunarono tutte le panche di legno al centro della chiesa prima di riempirle di benzina, appiccare il fuoco. Poi portarono via tutte le statue sacre, le distrussero una a una. In quell'atmosfera sempre più cupa, molte famiglie avevano già lasciato il quartiere, abbandonando le loro case. Ricordi bene il terrore dipinto negli occhi dei tuoi genitori la sera in cui i paramilitari lealisti sfilarono in corteo per il quartiere, passando anche davanti a casa vostra. In quei minuti interminabili sei rimasto seduto sulle scale, fissando la porta principale, con un coltello e la cucina in mano, pronto a saltare addosso a chiunque fosse entrato in casa. Ogni famiglia che veniva cacciata, ogni aggressione, ogni sopruso rafforzava il tuo senso di appartenenza al movimento repubblicano, il tuo desiderio di resistere a difesa della tua gente. Una sera la donna che mostrava le case alle famiglie protestanti si fermò proprio davanti alla vostra, insieme a una giovane coppia. Qualche giorno più tardi un rumore assordante vi svegliò di soprassalto nel cuore della notte. Sembrava una bomba, invece era un grosso bidone della spazzatura che qualcuno aveva lanciato contro la finestra del salotto, mandandola in frantumi. Dopo il primo schianto seguirono le sassate alle altre finestre, infine i colpi di pistola sui muri della casa. Non ebbero neanche il coraggio di farsi vedere quei vigliacchi, ma il loro avvertimento era inequivocabile. Dovevate andarvene. All'ufficio che assegnava gli alloggi popolari vi dissero di andare a Twin Brook, un quartiere all'estrema periferia meridionale di Belfast, e di sistemarvi nella prima casa libera. Era un ghetto popolato per lo più da famiglie cattoliche cacciate da altre aree della città, ma non era poi così male. A prima vista ricordava Ratcool, in fondo l'avevano realizzato da poco gli stessi architetti britannici, ma era più verde, sovrastato da una bella collina, anche se mancava quasi tutto. Non c'era né un pub, né una farmacia, meno che mai un presidio medico. Le scuole e la chiesa le avevano ricavate all'interno di baracche di legno fatiscenti. Però vi ritenevate fortunati perché, al contrario di molti altri, almeno voi avevate l'acqua, la luce, un piccolo bagno in casa. La tua era una famiglia della classe operaia, ma non aveva alcuna tradizione politica alle spalle. Non c'erano nonni che avevano combattuto durante la rivolta di Pasqua o la guerra civile, neanche lontani parenti che si erano arruolati nelle brigate irlandesi per andare in Spagna a combattere Franco. Rosaline e John, tua madre e tuo padre, non condividevano il tuo impegno nell'IRA. Temevano che ti saresti messo nei guai. Come biasimarli, pensando al calvario che avrebbero passato dopo? Quante volte, rinchiuso nella tua cella, hai rimproverato a te stesso il modo in cui le hai affrontate, rivendicando le tue idee, i contrasti, i litigi che un giorno ti hanno portato a sbattere la porta e andartene di casa? È incredibile pensare a quanti anni di carcere ti saresti preso di lì a poco, pur non avendo mai partecipato a un vero attacco militare contro i soldati o contro la polizia. All'epoca i volontari dell'area di Twin Brook erano d'appoggio al primo battaglione di Belfast dell'IRA. Fornivano macchine e denaro da utilizzare nelle operazioni di guerriglia contro l'esercito britannico. Molto di più non avreste potuto fare. Le armi, le poche armi che avevate erano vecchie, sgangherate, potevano al massimo essere usate per far paura alla gente, non certo per sparare ai mezzi blindati o per attaccare le gigantesche caserme che oscuravano il cielo di Belfast. Chi ti ha conosciuto in quegli anni dice che eri instancabile, che non ti fermavi mai, anche se nelle operazioni militari non hai mai avuto molto successo. Ti arrestarono la prima volta il 16 ottobre del 1972, dopo un'estate di piccoli furti compiuti con i tuoi compagni. La polizia vi teneva d'occhio da tempo, il sostegno della popolazione ormai non bastava più per far perdere le vostre tracce. Quel giorno dovevate oltrepassare il confine per andare a prendere un carico di armi nella Repubblica, ma la vostra corsa fu interrotta a Lisbourne. Il tuo primo interrogatorio iniziò qualche ora più tardi in caserma e la mattina dopo ti hanno incriminato per una piccola rapina a mano armata compiuta un paio di mesi prima. Quando il giudice ti spedì nel carcere di Lancashire in attesa del processo, non potevi certo immaginare che, fatta eccezione per un breve periodo, avresti trascorso là dentro il resto della tua vita. Le chiamavate cages, gabbie. Erano vecchie baracche della Seconda Guerra Mondiale circondate da chilometri di filo spinato. Un carcere allestito in tutta fretta appena un anno prima, nell'area di una vecchia base aerea britannica. Non aveva ancora la fama sinistra che poi l'avrebbe reso famoso in tutto il mondo quando Londra decise di trasformarlo in qualcosa di molto più simile a un campo di concentramento, cercando una soluzione architettonica al conflitto. Insieme a te nella gabbia numero 8 c'erano altri prigionieri in attesa di processo. Quelle baracche arrugginite avevano tetti di lamiera che le trasformavano in forni d'estate, in frigoriferi d'inverno. ma il senso di comunità che si respirava là dentro è stato qualcosa di irripetibile. La consapevolezza che eravate l'unica speranza per la vostra gente, che prima o poi avreste vinto, che la vostra lotta avrebbe portato alla libertà, vi dava la forza di andare avanti. Quando alla radio trasmettevano la notizia di qualche operazione dell'IRA andata a buon fine, lanciavate urla di giubilo che rimbombavano nei corridoi. Sheanna Walsh arrivò qualche settimana dopo di te. Eravate coetanei, lui era entrato nell'IRA a 16 anni, mentendo sulla sua età, e un mese più tardi era finito in galera per rapina a mano armata. Avevate così tante cose in comune che siete diventati subito grandi amici. Molti anni più tardi sarebbe stato proprio lui ad annunciare al mondo che l'esercito repubblicano irlandese aveva deciso di abbandonare le armi per sempre. All'epoca non eravate neanche politicizzati, sapevate solo di essere in guerra con i britannici, con la polizia, con le squadracce lealiste. Ripensando a quello che sarebbe accaduto qualche anno più tardi, i primi tempi a Long Cash furono davvero memorabili. Nella stessa ala della prigione eravate oltre un centinaio, in gran parte giovanissimi. Durante il giorno potevate muovervi e parlare liberamente, giocare a calcio, andare in palestra, guardare la televisione, ricevere i parenti 3 volte alla settimana. In una di quelle visite ricorrenti, la tua Geraldine ti disse che era rimasta incinta. L'unico ricordo del vostro matrimonio che hai voluto fissare nella mente è stata l'immagine di lei al 7° mese di gravidanza, bellissima in quell'abito bianco che illuminava anche l'atmosfera cupa della cappella del carcere. Tutto si svolse in modo freddo e distaccato, lo scambio degli anelli, le firme sul registro, le lacrime di tua madre, infine il tè e gli biscotti consumati in fretta nell'ufficio del direttore del carcere. Per attenuarti l'angoscia del ritorno in cella, i tuoi compagni organizzarono una piccola festa. Tu hai imbracciato la chitarra e ti sei messo a suonare una delle tue canzoni preferite, Mandolin Wind di Rod Stewart. La sentenza che ti condannava arrivò una settimana dopo, nel giorno del tuo 19° compleanno. 5 anni di carcere per rapina e possesso di arma da fuoco. Geraldine stava per dare alla luce il vostro piccolo Gerald, era inevitabile che le vostre vite si separassero. Lei ne aveva abbastanza della lotta armata e tu hai capito che sarebbe stato necessario fissare un muro tra di voi. Ti sei immerso anima e corpo nello studio, nelle attività culturali, nella vita comunitaria del carcere. Con Sheanna e gli altri hai cominciato a studiare il gaelico, a divorare testi rivoluzionari, da Marx a Fanon, da Debray a Marighella, da George Jackson a Che Guevara. Giornate intere di letture collettive, di scambi di idee, di dibattiti. Il recupero dell'antico idioma irlandese fu un atto profondamente politico. E il tempo che vi costrinsero a trascorrere nelle gabbie divenne una straordinaria opportunità di crescita intellettuale che consolidò il vostro spirito. Se Long Cash è stato ideato per spezzare fisicamente e moralmente un prigioniero di guerra, queste attività costituiscono la nostra difesa e ci aiutano a essere sempre più determinati nella nostra resistenza, dicevi. Intorno al 1974 la situazione carceraria iniziò a precipitare. Nessuno si illudeva più che il conflitto stesse per finire. Da fuori arrivavano notizie orribili, una scia ininterrotta di terrore e morte, con attentati che non risparmiavano neanche la vicina Repubblica. 2 stragi in contemporanea nel centro di Dublino e Monaghan in un'anonima giornata di maggio, decine di vite innocenti spazzate via dallo Stato britannico e dai paramilitari lealisti, con una serie di autobombe fatte esplodere senza preavviso. Qualche giorno dopo, quel vostro compagno morto in un carcere inglese, Michael Gogan, aveva iniziato uno sciopero della fame reclamando lo status di prigioniero politico e le guardie gli avevano sfondato la gola col tubo per l'alimentazione forzata. Fu allora che un sordo furore invase Long Cash. Anche voi stavate protestando da tempo per il cibo disgustoso, per la sporcizia, per il trattamento dei detenuti in attesa di giudizio, per la violenza delle guardie, ed era inevitabile che prima o poi la tensione sfociasse nello scontro fisico. Una notte la gabbia 13 fu data alle fiamme. In breve tempo l'incendio divampò ovunque, bruciando le baracche fino a illuminare il cielo notturno. Vi siete abbandonati a una rabbia liberatoria, catartica, dando fuoco a tutto, come se quelle fiamme avessero potuto cancellare la prigionia che attanagliava voi e il vostro popolo. Poi decine di soldati armati fino ai denti hanno fatto irruzione nel cortile del carcere in una pioggia di proiettili di gomma e bastonate. Fu una scena apocalittica, con detenuti che cadevano a terra feriti o azzannati dai cani nel fumo dei lacrimogeni lanciati da un elicottero dell'esercito. L'aria satura di quel gas vi impediva di tenere gli occhi aperti, vi dava la sensazione di annegare, come se l'esofago e i polmoni fossero stati riempiti d'acqua. Ma la gioia, l'orgoglio, il senso di solidarietà che hai provato quel giorno ti hanno fatto capire che eravate più forti di loro, che la vostra impotenza fisica poteva diventare un'arma psicologica, che più vi picchiavano, più vi umiliavano, più vi privavano di qualsiasi cosa e più vi rendevano forti. È la repressione che crea lo spirito rivoluzionario della libertà. Quando sei tornato a casa nell'aprile del 1976, eri ormai diventato un'altra persona. Non riuscivi ad accettare l'idea di abbandonare i tuoi compagni in carcere. Eri convinto di voler riprendere immediatamente le tue attività nell'IRE. Anche il tuo quartiere era profondamente cambiato rispetto a 3 anni prima. Solo l'atmosfera pesante che si attaccava alla pelle come il fumo acre dei fuochi intorno era rimasta la stessa. Ma adesso potevi finalmente condividere lo stesso tetto con Geraldine e il piccolo Gerard, una casa modesta a Summer Hill Gardens, cucina e salotto al piano terra, le camere di sopra, la foto di Liam Mellows incorniciata sopra il camino. Di tutti i rivoluzionari irlandesi del passato che avevi imparato a conoscere in carcere era quello che ammiravi di più, per le sue idee, per il suo coraggio, per il sacrificio che mezzo secolo prima l'aveva visto cadere, abbattuto da un plotone di esecuzione nei giorni della guerra civile. Aveva 27 anni, gli stessi che avevi tu quando il tuo corpo si spense per sempre dopo quei 66 giorni di agonia. Chissà se avresti mai immaginato di non. Oggi stenteresti a riconoscerla, False Road, il luogo che più di ogni altro fu il crocevia della vostra lotta. La gigantesca stazione di polizia che sovrastava l'ingresso del cimitero è stata demolita. Tonnellate di cemento e lamiera mosse per lasciare spazio alla piccola piazza. Sull'altro lato le imponenti volumetrie di una catena di supermercati inglesi hanno affiancato impietosamente quell'antologia di caduti repubblicani. C'è chi dice che quegli odierni simboli del benessere rappresentino la svendita dei vostri ideali. Forse è davvero così, ma mi conforta sapere che quando torno a Belfast ci sei tu ad accogliermi con quel sorriso senza tempo, a indirizzare in uno spazio fisico la geografia della memoria che mescola le emozioni del presente con quelle del passato. Sapessi quante persone si fermano tutti i giorni a ricordare, a pregare o semplicemente a farsi una foto davanti a quell'enorme dipinto murale che ti ritrae come un monito per le generazioni future. Fuori dal carcere il tempo della tua ritrovata libertà ti rincorreva per di fiato, senza darti respiro. Ogni attimo era come se fosse l'ultimo. Ti alzavi all'alba per andare a lavorare in quel forno con un nome da fiaba, Peter Pan, e una paga da incubo. Il resto della giornata lo dedicavi a aiutare la tua gente con un entusiasmo che pervadeva il quartiere come una scarica di adrenalina. Allarga la tua base, diffondi gli ideali repubblicani, intensifica la lotta armata. Poche settimane dopo il tuo rilascio, Geraldine è rimasta incinta di nuovo. Le hai promesso che stavolta saresti rimasto alla larga dall'ira, pur sapendo che sarebbe stato impossibile. Non era la tua militanza a impedirvi di avere una vita normale, ma l'inarrestabile spirale di violenza che vi circondava. E chi osa giudicarti sappia che bisogna aver respirato a pieni polmoni l'aria di Belfast in quegli anni per comprendere certe emozioni, per valutare certe scelte, per comprendere fino in fondo cos'era giusto fare. Il modus operandi dei soldati inglesi si chiamava shoot to kill, sparare per uccidere. Vi colpivano a sangue freddo, vi ammazzavano senza pietà in pieno giorno, nelle vostre strade, nelle vostre case. In un soleggiato pomeriggio d'agosto il tuo amico Danny Lennon stava scappando a bordo di un'auto rubata. I soldati avrebbero potuto fermarlo, invece lo crivellarono di colpi, senza preoccuparsi della gente a passeggio per le strade di Belfast. La sua macchina perse il controllo, travolse il marciapiede e uccise 3 bambini. Fu un'immane tragedia, l'ennesima, che lacerò la vostra comunità e vi convinse sempre più che la resistenza armata era l'unica strada percorribile. L'esercito britannico, la polizia, i paramilitari lealisti. Il vostro nemico aveva un nome, un'arma, una divisa. Attaccavate obiettivi militari ed economici, non prendevate mai di mira i civili. Come in quel maledetto giorno di ottobre in cui ti arrestarono di nuovo, con una pistola in macchina. I pochi attimi di libertà che avevi respirato con la tua famiglia svanirono per sempre. i tuoi ultimi 6 mesi di vita vera, di fatica e speranza, di lotta e amore, si infransero contro una condanna spaventosa. 14 anni, non potevi sapere che stavolta la tua fragile esistenza terrena avrebbe lasciato spazio per sempre alla tua epica. Sei tornato a Long Cache dopo una settimana di torture nel centro di detenzione di Castlereagh e 22 giorni di isolamento nel carcere di Cramlin Road, 15 dei quali trascorsi nella totale nudità per il tuo rifiuto di indossare l'uniforme carceraria. Quelle antiche celle vittoriane dall'odore nauseabondo, solcate dal ronzio incessante di un gruppo elettrogeno che avrebbe potuto farti impazzire senza libri né giornali né radio, furono l'anticamera del tuo inferno. Geraldine era paralizzata dalla paura di perderti di nuovo e furiosa con te perché avevi tradito il vostro accordo e ritornato in prigione da poco quando hai saputo che aveva partorito un bimbo nato prematuro. Era minuscolo, non più grande di una mano, quasi spariva nell'incubatrice. L'aveva chiamato Liam in onore di Liam Mellos, ma il piccolo non sarebbe riuscito a superare il primo mese di vita. Da qualche mese avevano abolito lo status di prigioniero politico, il nuovo regime carcerario vi equiparava ai criminali comuni e chi non intendeva piegarsi era costretto a una lotta sovrumana. Quando imposero a Kieran Nugent di indossare l'uniforme carceraria, lui rispose sprezzante: inchiodatemela alla schiena, e restò in cella nudo, coprendosi soltanto con una coperta. Poi siete stati in centinaia a fare come lui. Non porterò la divisa dei carcerati, né sconterò mansueto la mia pena, solo perché così l'Inghilterra possa spacciare la lotta dell'Irlanda per 800 anni di crimini. Quanto dolore per quelle madri che venivano a farvi visita e scoppiavano a piangere, vedendovi ridotti a cadaveri ambulanti, con i capelli e la barba lunga avvolti in quelle luride coperte. Ma il vostro fisico scheletrico e segnato dalle percosse mascherava in realtà la forza millenaria invincibile che divampò nelle strade di Parigi spazzando via la Bastiglia, che morì nel sangue a Wounded Knee e risorse dalle proprie ceneri a Dublino nella settimana di Pasqua del 1916. Era la superiorità morale degli oppressi, la furia del pensiero indomabile di chi lotta per la giustizia, una forza impetuosa che vi incendiava i cuori e faceva tremare i vostri carnefici. A lungo provate a immaginare, senza mai riuscirci, come ti sia stato possibile assimilare il grido di dolore del tuo popolo fino a trasformarlo in versi, traducendo in liriche raffinate una feroce lotta per la libertà. E già il modo in cui hai fatto arrivare al mondo le tue struggenti poesie aveva un sapore elegiaco. Rannicchiato al freddo nella tua cella, con le orecchie tese a captare l'arrivo dei secondini che ti avrebbero punito duramente se ti avessero scoperto, ne scrivevi su minuscoli pezzi di carta igienica usando il ricambio di una penna sfera fatta entrare in carcere di contrabbando. Ma così sei riuscito a comporre in poesia e in prosa le testimonianze carcerarie più potenti mai scritte in lingua inglese. Dicono che se da ragazzo tu non avessi ascoltato il canto dell'allodola non saresti mai diventato un poeta. Ma la brutale violenza di quello scontro carcerario ebbe ben poco di poetico. Invece di nutrirti della tua disperazione hai deciso di trasformare il carcere in un campo di battaglia, i tuoi scritti e le tue gesta in armi micidiali. I blocchi H di Long Cache erano tutti uguali. La costante e implacabile clonazione di ogni struttura serviva a sopprimere qualsiasi punto di riferimento, a creare una sensazione di totale disorientamento. Nelle umiliazioni, nei pestaggi e nel cupo dolore che vi procuravano ogni giorno per cercare di spezzarvi, hai conosciuto l'olocausto inflitto per secoli alla tua gente e a tutti i popoli in lotta contro l'oppressione, in qualunque parte del mondo. Nelle tue vene scorreva lo stesso sangue rivoluzionario versato da Robert Emmett, Jeremiah O'Donovan, da Thomas Clarke, James Connolly, da Terence McSweeney e Kevin Barry e da chissà quanti altri ancora. Per evitare le percosse delle guardie avete smesso di uscire dalle vostre celle rifiutando di lavarvi. Quando smisero di svuotarvi i buglioli siete stati costretti a rovesciare i vostri vasi pieni di escrementi sul pavimento della cella, a spalmarne il contenuto sui muri. Convivevate con i rifiuti, con i vermi, le infezioni e un odore nauseabondo. Chissà se il riscaldamento del carcere, che tenevano spento in inverno e sparato al massimo in estate, era acceso in quel giorno d'agosto del 1978, quando l'arcivescovo di Belfast venne a farvi visita, il racconto di ciò che vide è passato alla storia, anche se non riuscì a cambiare niente. Difficilmente si lascerebbe vivere un animale in quelle condizioni. Il fetore, la sporcizia in certe celle con resti di cibo marcio e escrementi umani sui muri era quasi insopportabile, disse il primate cattolico. In due di loro sono stato incapace di parlare per paura di vomitare. Le celle dei prigionieri sono senza letti, né tavoli, né sedie, non hanno libri, giornali o altre letture se non la Bibbia, niente pegno o materiale per scrivere, niente TV o radio, niente hobby, niente esercizio fisico o svago. E c'era persino chi aveva il coraggio di sfidarvi. Roy Mason, segretario di Stato inglese, disse in TV che fuori dal carcere avevate a malapena un centinaio di sostenitori. Un paio di giorni dopo, quasi 15.000 persone scesero nelle strade gridando i vostri nomi a squarciagola. Non avreste mai potuto sopravvivere in quelle condizioni senza il sostegno e l'amore di un'intera popolazione che in quegli anni ha vissuto in simbiosi con la vostra lotta. Non potevate cedere, perché arrendersi sarebbe stato come tradire le loro speranze e condannarli a un futuro senza libertà. Eravate pronti a qualsiasi sacrificio, anche a riprendere quell'antica e spaventosa forma di lotta che portava alla morte. Qualche anno prima uno sciopero della fame nel carcere di Cranmer Road aveva costretto il governo inglese a concedere di nuovo lo status di prigioniero politico. Quel precedente vi dava speranza e vi spinse a riprendere quella protesta estrema. Alla fine di ottobre del 1987 i tuoi compagni iniziarono a rifiutare il cibo insieme a tre donne coraggiose del carcere femminile di Armagh. Se qualcuno fosse morto, c'erano già centinaia di compagni disposti a iniziare lo sciopero al posto loro. Oltre 50 giorni dopo, con Sean McKenna che entrava e usciva dal coma, gli inglesi finsero di offrire un accordo e vi convinsero a sorprendere la protesta, ma le vostre richieste caddero tutte nel vuoto. Quel tuo grido rabbioso scosse come un tuono i corridoi di Lancashire. Non abbiamo ottenuto niente. Come ufficiale in comando dei prigionieri repubblicani di Lancashire sentivi sulle tue spalle tutto il peso e la responsabilità di quel cuore, ma di fronte a quell'inganno e all'orrendo è rimasta l'unica soluzione possibile. Solo con il sacrificio della vita avreste costretto la lotta. Monsignor Denis Fowler era uno di voi, ma neanche lui riuscì a farti cambiare idea. Ti scongiurò di desistere in nome di Dio, ti disse che per un cattolico lasciarsi morire era peccato. E tu l'hai zittito, citandogli quella frase del Vangelo di Giovanni: nessuno ha un amore più grande di colui che dà la vita per i propri amici. L'ultima sera di febbraio del 1981, un sabato, ti sei seduto sul materasso della tua cella e hai mangiato per l'ultima volta. L'arancia che ti avevano dato, ironia della sorte, era amara. Il giorno dopo un'atmosfera blu, quasi a segnare l'inizio della tua lenta agonia. Ma finché avessi avuto fiato in gola avresti continuato a gridare. Nei primi 17 giorni senza cibo hai avuto persino la forza e la lucidità di consegnare alla storia il diario della tua via crucis. Sono qui, sulla soglia di un altro mondo palpitante. Possa Dio avere pietà della mia anima, hai scritto. Sto morendo non soltanto per porre fine alla barbarie dei blocchi H o per ottenere il giusto riconoscimento di prigioniero politico, ma soprattutto perché ogni nostra perdita qui è una perdita per la Repubblica e per tutti gli oppressi che sono profondamente fiero di chiamare il popolo insorto. I tuoi carcerieri erano certi che prima o poi avresti ceduto, sistemarono nella tua cella un tavolo pieno di cibo per sfidarti, te lo lasciarono davanti agli occhi per rendere ancora più dura la tua prova. Ma il cibo terreno, dicevi tu, non fa vivere gli uomini in eterno. Così sei riuscito a resistere con solo, pensando che sarò nutrito abbondantemente lassù, se ne sarò degno. Ma poi mi assale il pensiero atroce che lassù non si mangia. Intanto continuavano a ripetere che non rappresentavate nessuno, criminali fanatici e isolati. Ma poi morì improvvisamente quel deputato vicino alla vostra lotta, Frank Maguire, e il movimento che vi sosteneva fuori dal carcere ebbe finalmente l'opportunità per smentire quella vile menzogna. Furono convocate elezioni supplettive e decisero di candidarti per un seggio a Westminster. In quei giorni la lucida follia della disperazione prevalse su tutto, anche sui timori di un possibile fallimento che avrebbe messo a repentaglio il futuro della vostra lotta. per intere settimane una mobilitazione commovente riaccese le speranze e culminò in quel giorno d'aprile, quando una gigantesca marea umana decise di sfidare ogni logica. Oltre 30.000 persone ti votarono per cercare di salvarti la vita, ma soprattutto perché si immedesimavano in quella lotta con coraggio. La notizia iniziò a circolare tra le celle e all'improvviso un grido di gioia esplose nell'intero braccio, rimbalzando di muro in muro con echi terribili. Tiocciola, Tiocciola, il nostro giorno verrà. Ma il cuor tuo sapevi che niente avrebbe potuto riscrivere il tuo destino, e poco importava che tu fossi stato eletto nel Parlamento di un paese che diceva di essere la più grande e antica democrazia del mondo, perché per loro restavi un criminale comune, quindi era giusto che tu morissi tra le più atroci sofferenze. Un medico impietoso ha spiegato a tua madre che quei segni viola sul petto e sulle braccia erano vasi sanguigni ceduti, che la tua vista era danneggiata irreparabilmente, che i tuoi organi vitali erano sottoposti a uno sforzo insopportabile. Le ha detto che avresti avuto una morte lenta, che prima o poi il fegato o i reni avrebbero smesso di funzionare, oppure che saresti stato troncato da un tumore al cervello, da un violento attacco coronarico. Stavano cercando di spezzarti e si illudevano di farlo attraverso di lei. Sii forte, ha ripetuto a tua madre, perché io lo sarò. Il tuo cuore grondava lacrime di disperazione, ma sapevi di poterti fidare di lei, di sicuro che avrebbe trovato dentro di sé la forza per rispettare fino in fondo la tua scelta, e che quando saresti entrato in coma non avrebbe dato il suo assenso all'alimentazione forzata. Avevi l'intestino distrutto, soffrivi dolori lancinanti allo stomaco, eppure nessuno, neanche alla fine, ricorda di aver mai sentito uscire un lamento dalla tua bocca. Per quanto mi possa sforzare, la mia mente rifiuta di immaginarti riverso su quella sedia a rotelle, ancora lucido, cieco da un occhio, coperto dal pigiama imbottito che ti avevano fatto indossare per evitare che al minimo movimento le ossa ti uscissero dalla pelle. E mi piace pensare che prima del buio i tuoi compagni abbiano sentito per l'ultima volta quel grido che un tempo facevate rimbombare nei cortili delle gabbie. Venceremos! La storia e la leggenda si contendono il finale. In mezzo a quell'orrore sei riuscito a attraversare con dignità, grazia e determinazione il sottile crinale che separa la vita dalla morte. Il tuo corpo scarnificato, disidratato, ricoperto di piaghe è diventato cenere della rivoluzione all'alba del 5 maggio 1981. Da allora hai continuato a parlarci, a scuotere le nostre coscienze, a ricordare che ogni battaglia giusta deve essere sempre combattuta fino alla fine. Nessun martirio potrà mai essere più sacro di quello che hai condiviso con Francis, Raymond, Pazzi, Joe, Martin, Kevin, Kieran, Thomas e Mickey. I compagni che ti hanno seguito nella protesta e uno dopo l'altro si sono lasciati morire di fame dopo di te. Con loro hai affrontato un mostro e gli hai impedito di affondare le sue zampe nella tua anima. Hai combattuto e vinto una battaglia che non ha patria né confini, per la liberazione di un piccolo popolo, che è la metafora del mondo intero. Bobby Sands.